Zici pe rebei moru. Gini, urani. Dar ti se... Mura vei, pe nesli presa, doki sa mi mucele, ki tia sa zbrni, come dira toba. Mi cane, sa mu unia al... Rani ginesio, non ne mu mutani, horno su unia paruni. E so lieta, oh, sa malovra. Perché gli altri hanno lì, gli altri lì, hanno lì, hanno lì, hanno lì, hanno lì, hanno lì, hanno lì, hanno lì, hanno lì, hanno lì, hanno lì, hanno lì, hanno lì, hanno lì, hanno lì, hanno lì, hanno lì, hanno lì, hanno lì, hanno lì, hanno lì, hanno lì, hanno lì, perché con tutte le cose che sono bene recibite, io forse. Questo paese è una cupretina, druso dei denunati, io forse. Ma se non riesco a finire da molti, almeno non so che cazzazioni hanno. Domaro carine. Almeno carine ci sanno. Io poi. Per quello cosa serve? Ah, bisogna tacere.